18 e 14 minuti primi, 87 e 9, questa è Radio Onda Rossa, una incursione nel martedì autogestito da femministe e lesbiche. Faremo questo spazio di approfondimento su un convegno che c'è stato all'inizio d'aprile, dal 3 al 5 aprile ad Amburgo, convegno organizzato dalle realtà curde per parlare di anticapitalismo. Il titolo del convegno si chiamava Sfidare la modernità capitalista 2, perché già ce n'era stato uno nel 2012 e quindi questo è stato il secondo anno che è stato fatto questo convegno. Trovate tutte le indicazioni per approfondire questo tema e per leggere i resoconti di tutti i partecipanti e di tutte le partecipanti su wikionlus.com, www.wikionlus.com, oppure network AQ, quindi www.networkaq.net. E siamo qui in compagnia di due compagne perché volevamo un po' raccontarvi questo convegno. È stata una 3 giorni abbastanza intensa, che si è svolta in un'aula magna dell'Università di Amburgo, molto affollata e molto partecipata. Insomma, anche l'importanza da parte dell'Università di Amburgo e della città di Amburgo di ospitare un convegno sull'anticapitalismo, sullo sfidare la modernità, insomma, è stata una cosa molto interessante. Hanno partecipato circa 1 migliaio di persone in tutta la 3 giorni, un po' da tutte le parti del mondo. Ovviamente, insomma, la partecipazione di tutta la comunità curda è stata abbastanza importante, ma poi appunto anche personalità da tutto il mondo, sia dagli Stati Uniti d'America, dall'India, dall'Europa, dal Sudafrica, dall'Asia e anche dal Sud America. Sì, diciamo così, c'è stato, insomma, cercheremo di raccontarvi un po' quali sono stati i temi principali che si sono toccati. Questo convegno, appunto, come vi dicevo prima, è stato il secondo che è stato organizzato e rispetto al precedente ha lavorato e ha puntato un po' di più i relatori e le relatrici sono stati invitati a parlare un po' più concretamente delle pratiche odierne che si attuano, si praticano appunto sui territori per quanto riguarda l'anticapitalismo. Infatti, appunto, analizzare la modernità capitalista, costruire il confederalismo democratico, ovviamente una delle prime pratiche di cui si è discusso e da cui si è partiti è stata quella del confederalismo democratico, ideato e scritto da Abdullah Öcalan, quindi da uno dei leader del PKK e del movimento curdo, e nelle sue forme pratiche nelle varie zone, in alcune zone e municipalità della Turchia e anche del Rojava liberato, in particolare del cantone di Cizire e di quello di Kobane. Quindi, allora, innanzitutto io invito le compagne che sono qui con me a prendere parola, le saluto, ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte. Allora, io inizierei, insomma, io ho detto semplicemente questo, ho dato un inizio. Appunto, il punto dei primi tavoli, il convegno è stato aperto dal messaggio di Abdullah Öcalan. Ovviamente ricordo che tutti questi interventi li trovate scritti in italiano e sbobinati sul sito di wikiollus.com. Appunto, ci sono state diverse sessioni, vi dico un po' quali sono stati i temi delle sessioni. Analizzare la modernità capitalista è stata la prima, e poi ce n'è stata un'altra sulla modernità democratica. Si è parlato molto di modernità democratica e non tanto di democrazia, poi casomai, insomma, andremo anche a raccontare la differenza, a spiegare un po' la differenza su questo. Poi c'è stato anche un concerto e via dicendo, poi lezioni da apprendere da pratiche alternative, appunto, quindi un tavolo specifico, anche se poi questo tema ha attraversato un po' tutti i tavoli, proprio delle pratiche che oggi sono sul territorio, a partire dalla Grecia in particolare. Ci sono stati, insomma, esempi da parte della Grecia piuttosto che da Montreal, piuttosto Sudafrica, piuttosto che dall'India o piuttosto stesso appunto da Rojava o da alcune municipalità della Turchia, su delle pratiche proprio che si portano avanti di anticapitaliste e di pratica della modernità democratica. E poi lezioni da apprendere di pratiche alternative, questo ve l'ho detto, e poi c'è stato un tavolo, una discussione proprio sulle pratiche delle donne e pratiche femministe. Allora, io a voi vi inizio a lasciare la parola su quali sono stati, insomma, un po' i temi cardine centrale di queste discussioni. Sì, io sono Roberta, faccio parte del collettivo F9 e con una delegazione del collettivo appunto abbiamo partecipato a questo convegno. Diciamo che la prima cosa che vorrei dire è che l'impressione è stata di un grande respiro internazionale, un grande respiro internazionale che appunto è nato dalla richiesta di studenti curdi e studenti tedeschi di Amburgo, che nel 2012 hanno voluto fortemente questa conferenza e che l'hanno riproposta anche quest'anno, ma anche un grande respiro internazionale perché diciamo il Kurdistan si mette un po' in una posizione di interlocuzione da un lato rispetto alle pratiche che mette in atto e rispetto anche alle teorie che sviluppa, interlocuzione che vuole da parte del mondo che riflette su questi temi e che pratica attivamente e politicamente un'interlocuzione e anche un atteggiamento critico, cioè loro chiedono proprio di commentare queste pratiche e queste teorie, per cui diciamo lì ad Amburgo noi abbiamo visto una parte di tutto questo, perché io personalmente non ho visitato il Kurdistan e quindi purtroppo non ho avuto la fortuna di avere questa esperienza, però già lì ad Amburgo è stato uno scorcio importante su questo tipo di atteggiamento del Kurdistan. È stata molto forte, come diceva già Cristina, la compresenza appunto di racconti di pratiche e allo stesso tempo di teoria. Negli stessi tavoli si ascoltavano appunto interventi che partivano da teoria economica, insomma, piuttosto profonda, anche con dei tecnicismi, però spiegati sempre con molta chiarezza dai relatori e dalle relatrici, e che venivano però di volta in volta interrogati dai racconti delle pratiche del Kurdistan, come di altri paesi che appunto ricordava Cristina poc'anzi. Quello che mi sono chiesta stando lì è in che modo l'esperienza del Kurdistan ci interroga politicamente, e un esempio che vorrei riportare all'interno di questi panel che abbiamo ascoltato, appunto all'interno di questi panel di cui poi magari Viola farà un approfondimento più specifico, è quello della cooperativa di donne che appunto hanno raccontato di questa cooperativa in cui riusano delle pelli già, insomma non usano pelli nuove di animali, ma riusano pelli già disponibili per appunto fare borse o altre cose, ma anche costruiscono vestiti, piuttosto che si reinventano un altro tipo di economia, che è quella appunto che vuole usare l'agricoltura del luogo senza fare il doppio passaggio sul mercato e invece usufruendo della vendita diretta. A un certo punto uno degli interventi dal pubblico ha chiesto come loro si relazionavano rispetto al prezzo, e diciamo questo intervento è stato piuttosto importante perché non si è risposto dando appunto una strategia, perché naturalmente loro stanno in un momento di ripensamento totale, quindi non sempre hanno delle risposte già disponibili, però quello che penso che interroghi molto anche l'Occidente rispetto a quello che loro dicevano è il fatto che il prezzo deve essere stabilito in base alla necessità del prodotto, e quindi mi sono trovata a chiedermi anche beni di prima necessità come la casa, gli alimenti che in Occidente sono gestiti dal mercato e quindi tendenzialmente variano a seconda della richiesta del mercato, lì invece sono pensati in tutt'altra ottica e con tutt'altro approccio, e appunto sono basati sulle necessità. Su questo insisteva anche l'intervento dall'India di Susa, che appunto diceva bisogna, una delle frasi che mi piace riportare è bisogna pensare in piccolo, bisogna agire in piccolo per poter pensare e agire in grande. E allora naturalmente ricominciare dal piccolo significa ricominciare anche dalle esistenze, dalle condizioni materiali, per poter costruire un'alternativa economica al capitalismo di cui ci ha parlato anche David Harvey e David Graeber. Sì, infatti, ciao a tutte, sono Viola, sempre di Femministe 9. Sì, infatti, diciamo che convivevano in questo convegno istanze di analisi grandi sul macro sistema economico e al tempo stesso piccole, tra virgolette, pratiche non solo di resistenza, ma pratiche di invenzione, di immaginazione di altro, di un altro mondo in cui in qualche modo le esistenze delle persone non fossero, diciamo, regolate da qualcosa che non era autodeterminato e quindi deciso dall'alto. Su questo mi piacerebbe dire in particolare due cose: come la modernità capitalista sia strettamente legata a doppio mandato con l'ideazione e la formazione di quello che noi chiamiamo, di quello che è lo Stato-Nazione, che è una delle prime cose che viene messa in questione da Öcalan nel momento in cui ripensa un'alternativa possibile per il Kurdistan, proponendo un confederalismo democratico, cioè un non Stato in cui convivono insieme popoli di diversa origine, di diversi usi, diversi costumi, diverse religioni, ma che condividono insieme un'idea di benessere, e come la nostra idea di benessere in qualche modo possa essere in questo modo completamente rivoltata. E come al tempo stesso la modernità capitalista sia strettamente legata proprio al capitalismo, cioè al mercato, e a questo mi ricollego fortemente all'intervento di Harvey, che da un punto di vista di analisi, diciamo, marxista, provocatoriamente diceva, poneva questa domanda: che cosa vuol dire essere anticapitalisti oggi? Possiamo definirci anticapitalisti oggi? Ma se ci definiamo così, e se ci definiamo così, andare fino in fondo a questa definizione vuol dire seguire all'oggi quelli che sono i movimenti dei soldi, i movimenti dei soldi che sono movimenti assolutamente ormai slegati dal valore intrinseco, uno, dei beni, e due, della moneta. Questo ha instigato una grossa discussione che da una parte ha teso a riportare tutto a un senso di umanità, umanità in cui il valore non è più determinato appunto da qualcosa che che non comprendiamo fino in fondo, ma che sono piccoli click che muovono grossissimi ammonti di denaro che non corrispondono più di fatto a niente. Dall'altra, che cosa vuol dire la parola valore? Cioè, all'oggi il valore di un bene, ma anche il valore di una persona, ma anche il valore di una collettività, come possiamo ridefinirlo? E in questo senso legare questo convegno ha legato fortemente la parola valore alla parola esperienza, perché l'esperienza e le piccole esperienze quotidiane del Kurdistan e della regione Rojava, così come le esperienze di alcune regioni dell'India in cui si sta provando a ritornare a un certo tipo di agricoltura e in qualche modo a eliminare degli intermediari che sono quelli che poi fanno sì che si sfasi completamente il valore, è riparlare di esperienze in modo così radicale, così forte per noi, poi per noi che siamo qui oggi, che siamo andate lì ieri, vuol dire di fatto includere e anzi mettere al primo posto il femminismo, che per primo forse è stato in grado di parlare di quella che sono le esperienze messe come prima questione politica. In questo senso mi sento di dire che forse non siamo qui non avrebbe senso qui e non ha avuto senso lì istituire un tavolo sul femminismo, perché il femminismo non è qualcosa da mettere a tema separatamente dal mondo, dal capitale, dallo Stato, dalle altre immaginazioni, dalle altre pratiche, eccetera, ma è qualcosa che permea e che deve essere una prospettiva fondante del cambiamento. E questo nei compagni e nelle compagne curde è veramente riconoscibile e anche abbastanza sorprendente, devo dire, stando lì, come non c'è bisogno di ogni volta ridire come la liberazione delle donne sia fondamentale, fondante alla base, perché sono le donne le prime a conoscere l'esperienza, l'esperienza messa in comune, l'esperienza parlata, l'esperienza agita. Mi rimane fortissimo questo senso di una teoria, di una pratica, di un momento in cui tutti insieme si poteva ragionare sul mondo partendo dai presupposti femministi. Questo è, insomma, per me è stata una cosa veramente determinante. Tra l'altro mi sembra particolarmente significativo il fatto che fossero state messe a disposizione la traduzione di tutti gli interventi in 6 lingue diverse, spagnolo, italiano, inglese, tedesco, curdo e turco. Questo vorrei proprio sottolinearlo, perché mi sembra proprio un discorso che non si parla addosso, ma che ha invece l'intenzione di pronunciare delle parole che arrivino agli interlocutori a cui si fa riferimento. E poi un'altra cosa che mi sembra insomma importante da sottolineare è il fatto che questa prospettiva femminista di cui parlava Viola adesso è la prospettiva che tutti e tutte hanno nominato all'inizio dei loro interventi, e che in qualche modo richiede però anche una prospettiva internazionale. Cioè non è un discorso né femminista né politico né in qualche modo radicato soltanto nell'idea di una nazione, di una connotazione culturale, ma è proprio la richiesta di un'interlocuzione nazionale in una prospettiva di base femminista, ma che tende anche a una prospettiva ecologica e postcoloniale. Questi sono, diciamo, i punti cardine su cui poi si sono mossi tutti gli interventi di questo convegno, ma anche, diciamo, l'intenzione generale di questo parlare a vicenda, ecco. Allora, diciamo, non so come vogliamo proseguire. Io la cosa che volevo dire è innanzitutto che sono state portate la cosa, insomma, anche interessante che c'è stata è questo continuo collegamento con i territori, per cui là, quello che prima citava anche Roberta, cioè l'esperienza delle cooperative, è stato fatto un collegamento Skype con una donna che lavora proprio in una cooperativa, in questo caso nel Kurdistan turco, e che ha raccontato appunto la loro esperienza, questo del riciclo delle pelli, delle forme appunto anche sulla questione del denaro e via dicendo. Ma anche un'altra cosa che è stata molto, diciamo così, accolta con calore è stato il collegamento ovviamente con Kobane, che è stata liberata, insomma, da poco tempo, e in particolare con le YPG, quindi con le donne che hanno combattuto per la liberazione del cantone di Kobane, perché sin dal messaggio di Öcalan, che poi da tantissimi interventi che sono stati fatti, la questione dell'autodifesa è stato un tema molto centrale e messo lì. E ovviamente per le curde, per i curdi è una pratica ormai decennale. Questo perché? Perché soprattutto se si vuole e si sta provando a smantellare lo Stato-Nazione, se si sta cercando di costruire un confederalismo democratico, ovviamente il capitale e la repressione o comunque gli stati e via dicendo tendono a distruggere. Quindi la forma dell'autodifesa, della difesa non soltanto della propria persona che è la cosa principale in questo momento che i curdi e le curde stanno facendo, ma la difesa anche di quello che si sta cercando di costruire, quindi penso in Rojava l'applicazione del confederalismo democratico è stato uno dei temi centrali. Del discorso di Öcalan, ma anche di alcuni interventi che ci sono stati, diverse donne curde hanno parlato, anche diciamo così appartenenti, dirigenti di vari partiti del curdi o che hanno avuto comunque esperienze in partiti curdi e via dicendo, hanno detto proprio questa questione dell'autodifesa, ma anche soprattutto dell'autodifesa delle donne, e come primo passo proprio per la liberazione appunto di se stesse e poi del territorio che si sta liberando. Sì, io volevo anche a proposito di questo, appunto perché giustamente è stata nominata l'autodifesa, mi sembra molto interessante quando diciamo come no, adesso qui portare, riuscire a trarre esperienza da queste altre esperienze, no? Quando si mi è venuto in mente, mi sono venute in mente molte cose, tra cui una forse una grande questione, una grande domanda alla quale ovviamente non ho una risposta e non penso che ce l'abbiano, non ci sia una ricetta, però di questa capacità che hanno avuto di coniugare un forte discorso fondato sull'autonomia e sull'autodeterminazione insieme ad una organizzazione, che è qualcosa che forse anche politicamente qui può esserci da lezione, cioè poter coniugare autonomia e organizzazione vuol dire in qualche modo non far finta che il potere non esiste e non c'è e non ci sia bisogno di organizzazione, perché in qualche modo le cose si decidono, ma si sono istituite proprio lì nella regione Rojava dei sistemi di organizzazione del potere e quindi di organizzazione di dove delle decisioni da prendere sia nell'emergenza ma anche nella quotidianità, organizzate secondo dei principi che non sono strettamente dei principi che noi qui vediamo tutti i giorni, anzi non li vediamo mai, fondati sulla, non so, sulla democrazia quindi con un sistema di deleghe, ma fondati su delle decisioni collettive divise in piccole municipalità, quindi in pochi e in poche, gestite da una doppia rappresentanza, un uomo e una donna a breve termine. Questi uomini e queste donne che si assumono non diciamo il potere nel senso dispregiativo, ma di essere al servizio della comunità, hanno per un breve termine un mandato di rispondere a quella comunità, a quella municipalità, rispondere a quella municipalità di mettere in atto quello che la municipalità decide, senza, da una parte, senza ignorare, senza andare per conto proprio e quindi senza prendere poi il potere, ma dall'altra assumendosi la responsabilità di prendere delle decisioni. Una, diciamo, vi faccio un esempio molto molto comprensibile che ha fatto uno dei rappresentanti di una municipalità curda che ha fatto un intervento. Una di queste è come gestire l'acquisto al mercato dei formaggi. Sembra una banalità, e invece è una cosa importantissima. Cioè istituire dei gruppi di persone che vanno direttamente dal produttore, dicono al produttore quanto denaro vuoi per quel tot di formaggi, portare quei formaggi al mercato e non alzare il prezzo nell'intermediazione, ma rivenderli allo stesso prezzo. Questa diciamo semplicissima cosa fa sì che uno, il mercato non domina, perché non si duplica né quadruplica né quintuplica il prezzo, e dall'altra le responsabilità di chi compie questo gesto sono delle responsabilità politiche e decisionali. Questo vuol dire che sulle piccole cose, così come sulle grandi, perché dall'altra parte possiamo dire che una grande cosa è stata istituire immediatamente delle accademie di insegnamento, vuol dire che dalle piccole alle grandi cose ci sta un'organizzazione che è scelta, è autodeterminata, chi sta a capo del chi si accolla in qualche modo questo potere qui risponde alle persone e al tempo stesso non ha il tempo di prenderci troppo il gusto, non so come dire, e quindi il potere non diventa un elemento determinante. Mi sembra molto interessante perché qui da noi è come se fosse molto difficile dover scegliere fra un sistema assolutamente in cui decidono in pochi, oligarchico, e un sistema assolutamente democratico, falso, in cui le deleghe si danno ma poi non si sa mai che cosa accade davvero, e un sistema invece in cui nessuno prende nessuna decisione, quindi in qualche modo immobile. Questa via di mezzo e questa è qualcosa che è così profondo e così rivoluzionario che non ho nessun problema a pensare che è proprio questa cosa qui che nell'Occidente, negli stati che attorniano il Kurdistan, possono consentire. Ed è per questo che c'è una repressione così forte, perché autodifesa va insieme ad autodeterminazione, che va insieme ad autonomia. Sì, volevo sottolineare in particolare rispetto a quello che diceva Viola, che il fatto che ci sia qualcuno che si prende la responsabilità di fare delle cose, di prendere delle decisioni, significa anche che c'è la possibilità di individuare il responsabile di queste decisioni e di questi atti, cosa che invece penso che questo interroghi molto l'Occidente dalla nostra prospettiva, dal nostro abitare questo spazio e questo tempo, perché appunto noi viviamo fortemente nel periodo di una crisi economica in cui è molto difficile individuare chi è responsabile di questa crisi, perché i poteri sono talmente tanto parcellizzati e talmente tanto devoluti poi alla finanza che non è più possibile individuarli. In questo senso, chi ha avuto un po' la curiosità di andarsi a leggere delle cose sul Kurdistan ha sicuramente ha avuto modo di leggere di questa forte critica rispetto allo Stato-Nazione, perché appunto il popolo curdo non rivendica una nazione per sé e anzi ha elaborato appunto una fortissima critica nei confronti dei confini nazionali, a fronte invece della possibilità di coesistenza di popoli e di culture differenti proprio attraverso appunto questo confederalismo democratico. Anche questa mi sembra un elemento che interroga molto l'Occidente, in particolare l'Europa, che in qualche modo è giovane rispetto appunto a questa apertura dei confini europei, e però in qualche modo si ostina a irregimentarsi sempre di più dentro i confini nazionali. Soprattutto insomma, in questi giorni mi sembra abbastanza arroccata. Esatto. Sì. Facciamo una piccola pausa e riprendiamo. Sen aşk bu bile sen canım. del sol, de la luna y las estrellas, mares y montañas, espíritu de la tierra, del aire y el trueno. 87.9, 18 e 46 minuti primi, stiamo relazionando un convegno a cui abbiamo partecipato, che si è svolto ad Amburgo ormai insomma agli inizi di aprile, dal marxismo al nazionalismo alla democrazia radicale, questi alcuni dei temi, insomma, leggo un po' qui anche sul sito, sfidare la modernità capitalista, insomma questo sfidare il capitalismo, questo insomma è il tema del convegno. E abbiamo un po' parlato di quali sono stati i temi. Volevo leggervi l'introduzione, un piccolo stralcio dell'introduzione che ha fatto un rappresentante che ha fatto Chalan come intervento introduttivo, che è stato letto, insomma ricordiamo che è ancora rinchiuso nel carcere di Imrali in quest'isola dal governo turco, e lui in un pezzo dice questo: credo che questa conferenza contribuirà significativamente alla realizzazione dell'utopia libertaria dell'umanità. La guerra contro la società della modernità capitalista rende l'alternativa della modernità democratica ancora più urgente. La modernità democratica, che è l'odierna forma di forza delle civiltà democratiche, non è né una memoria di tempi antichi né un'utopia per il futuro. È un'istanza portata avanti da tutti gli individui e le unità sociali, le cui esistenze e interessi si scontrano e contraddicono il sistema capitalista. Questo insomma uno stralcio del suo intervento. Uno dei temi che c'è stato fondamentale, a cui si è partito di quasi tutti gli interventi, è stato ovviamente quando si parla di abbattimento del sistema capitalista non si può non partire da Marx. Lo stesso insomma Ocalan ha fatto tanti riferimenti, molti degli interventi hanno fatto tanti riferimenti a Marx, e c'è stata insomma anche una discussione su anche delle domande che sono state portate a vari rappresentanti dei curdi, a vari rappresentanti del PKK, sull'aver abbandonato poi le teorie marxiste, e loro in qualche maniera hanno risposto che in realtà Marx insomma ha fatto un po' il suo tempo, era come molti hanno detto figlio dei suoi tempi, e aveva teorizzando insomma l'abbattimento del sistema capitalista e quindi del rapporto basato sulla forza, sul rapporto forza-lavoro, e quindi tra virgolette sulla presa del potere da parte del proletariato, ma non aveva in qualche maniera mai ideato e realizzato praticamente o teorizzato praticamente l'attuazione del socialismo nelle sue forme, cosa che invece ha fatto Chalan con il confederalismo democratico. Questa è la loro risposta. Sì, infatti diciamo che sicuramente Marx è e rimane un punto di partenza fondamentale, e in tutti gli interventi erano diciamo di interlocuzione con insomma tutte le tante cose scritte e prodotte da Marx, tant'è che ci sono stati interventi molto interessanti del legame tra la teoria marxista e Gramsci, interventi su legame tra Marx e Ocalan, e mi sembra importante dire che da una parte Marx rimane fondamentale per l'individuazione di quelli che sono i rapporti di potere all'interno poi della società. Ricordiamoci che anche Marx, anche se è una cosa che ci dimentichiamo ogni tanto, ha detto che la prima oppressione è dell'uomo sulla donna, quindi questa è poi una battaglia che è diventata un caposaldo, caposaldo di Ocalan e dei curdi e delle curde. E poi va detto che le cose che scrive Ocalan sono in questo tempo, così come Marx ha scritto al suo tempo, le cose che scrive oggi Ocalan sulla ideazione e sulla messa in pratica di un'alternativa sono in questo tempo qui, e in questo tempo qui diciamo l'urgenza non forse questo non sta più. Sono tu, è tutto, diciamo, facciamo, scusami se ti interrompo, no, piccola, tutto il convegno era comunque in forma molto interrogativa, certo. Nel senso che è stato molto di domande e risposte, ma non è che ci sono state delle soluzioni, no. O si è dette delle verità assolute. Infatti stiamo dicendo molti forse, e ovviamente è tutto soggetto anche alle nostre letture e preferenze, no? Però quello che, diciamo, io penso che forse sia importante è ok, possiamo anche prendere il potere, ma poi di questo potere che cosa ce ne facciamo? E ripensare da capo la società, dalle pratiche alle donne, al mercato, eccetera, vuol dire di fatto avere una immaginazione e una pratica che non è più soltanto su una possibilità subito dopo, senza che realmente possiamo, no, conoscere. Invece qui il portare delle pratiche da parte del mondo diverse può forse essere qualcosa che ci dà delle risposte, non lo so, però sicuramente ci pone davanti al fatto che rimmaginare la società oggi, per rimmaginarla c'è bisogno di riattaccarsi alle nostre vite. In questo, secondo me, uno dei temi fondamentali di tutto il convegno è stato l'internazionalismo. Nel senso che una linea guida di tutti gli interventi è stato, a partire poi dal primo intervento, che è stato quello sulle donne anche di Kobane, che hanno detto: noi, la nostra liberazione non è soltanto per noi ma per le donne di tutto il mondo, non ci può essere liberazione nostra se non c'è liberazione di tutte le donne del mondo. E così questo, secondo me, è un po' la linea che ha guidato tutto il convegno, cioè il voler condividere delle pratiche che transmondiali e trovarne un filo comune che possano in qualche maniera avere una base comune. Ovviamente, essendo il convegno stato organizzato da la comunità curda, il pensiero del poter praticare, mettere in pratica il confederalismo democratico in ogni lotta, in ogni territorio, è stata la linea guida, però non ovviamente Tukur, non accettando così, ma è stato molto di dialogo e di discussione e di interrogativi. Mi ritrovo molto in questa, diciamo, suggestione che riporta adesso Cristina, e vorrei aggiungere il fatto che tutta questa cornice di ripensamento delle pratiche, dell'economia, delle relazioni, dei ruoli, della responsabilità, eccetera, è iscritto all'interno poi delle accademie, che è stata una delle ricorrenze che si è riproposta lungo le tre giornate, cioè il fatto che hanno insistito molto sul fatto che sull'istituzione di queste accademie dove loro continuamente studiano, cioè l'intersezione di tutte queste pratiche, di queste teorie venute da tutto il mondo, non è stata né casuale né calata dall'alto da professionisti del sapere che in qualche modo, leggendo o informandosi, hanno proposto dei nomi o dei temi, ma è un continuo documentarsi e studiare all'interno di queste accademie istituite in Kurdistan. Io penso che l'elemento dell'educazione, che sia un'educazione dei corpi da un lato, perché anche appunto lo YPG è anche un'esperienza di educazione dei corpi, che anche appunto l'educazione più teorica è stato un trade union di tutto il convegno, che, diciamo, insomma, ha anche la sua, secondo me, insomma, anche ha attirato la mia attenzione, immagino anche la vostra, il fatto che nel 2015 si dovesse e potesse ancora discutere di anticapitalismo e di abbattimento dello Stato-Nazione, nonché di autonomia democratica, di confederalismo democratico e via dicendo, di modernità democratica in un'università. Insomma, l'ho trovato, ecco, una, sì, esatto, possibilità di smuovere un po' le menti, smuovere un po' i cervelli, che difficilmente, per esempio, tutto, insomma, nel nostro paese questa cosa, certo, avviene. E non facendolo solo a livello accademico, per cui lo fanno gli accademici, per cui si parla di capitalismo a livello accademico, ma unendo proprio le pratiche delle persone quotidiane. C'era anche un pubblico dal molto giovane al molto adulto, al molto anziano, insomma era abbastanza variegato, sì. Anche diciamo così nella provenienza politica, immagino, da appunto c'era l'ala più marxista, più comunista, l'ala un po' più anarchica, visto insomma le ultime anche vicinanze di Öcalan, e si è parlato insomma c'è stata la possibilità di avere degli stimoli di discussione. Questo perché penso che questa questione di ripensare l'abbattimento dello Stato-Nazione, ripensare l'abbattimento del potere, che secondo me è anche una delle cose più importanti che a noi ci dovrebbe insomma interessare molto, e nelle pratiche di gestione dei territori sia una forma molto grossa. Alla fine della conferenza una ragazza spagnola a un certo punto ha fatto una domanda su dove è finita la lotta di classe nel PKK e dove è finita la lotta di classe nella, in tutto questo. Allora, diciamo che la risposta non c'è stata più di tanto, diciamo che questa critica sulla lotta di classe a Öcalan viene fatta spesso, perché in quasi tutti i suoi scritti sul confederalismo democratico, piuttosto che in altri scritti, lui ha un po' abbandonato la parola lotta di classe, immagino, insomma, e non dà delle risposte, quindi noi la ributtiamo lì a tutti voi, a tutte voi, come è stata tirata in ballo dalla ragazza compagna spagnola. Però tuttavia, insomma, la risposta che più o meno è stata data, che è più o meno quella che mi ricordo, è che e poi l'abbattimento delle classi, della lotta di classe, si fa nella pratica anche qui quotidiana, cioè sono le forme che si applicano, che quindi le forme che si applicano, dal rivedere l'economia all'ecologia al femminismo al già il femminismo di per sé, che se ne dica, insomma, anch'esso dovrebbe avere abbattimento delle classi al suo interno, comunque la lotta di classe al suo interno, piuttosto che la gestione del potere, l'abbattimento del potere, insomma, nelle pratiche poi si attua la lotta di classe, quindi non più una lotta di classe appunto in chiave marxista, come era stata, come ci è stata trasmessa, o comunque come abbiamo studiato, come, ma una lotta di classe a più socialista, democratico, confederalistica, non so come dirla. Sì, penso che, non so, la possibilità di avere una visione di questo tipo qui possa anche aprirci, e qui lo so che può succedere di tutto dopo che ho detto questa cosa, può aprirci anche a una visione in cui non è detto che ci siano le classi. Sì, e dall'altro lato non bisogna pensare appunto a questo ripensamento, a questa riproposta di un'altra chiave di lotta di classe come un'eliminazione del conflitto, perché invece penso che è stato piuttosto lampante nei racconti delle loro pratiche quanto invece il confronto dal basso sia pregno di conflitto, e quanto l'intera esperienza che ci riporta il Kurdistan stia in conflitto con tutto il mondo. Poi, quindi, cioè, non bisogna pensare a un livellamento che elimina la dimensione del conflitto, che è poi vitale per la politica. Tra tutti gli interventi, insomma, se ve lo volete andare a leggere, io vi ricordo, insomma, che sul sito wikionlus.com trovate tutti gli interventi. Uno ve lo volevamo consigliare, che è quello di questo italiano che si chiama Federico Venturini, che insomma, uno degli ultimi, insomma, degli ispiratori poi dei testi di Öcalan, appunto Murray Bookchin, di cui lui ci ha parlato, in particolare sulla questione dell'ecologismo e via dicendo, che insomma, adesso non abbiamo molto tempo per discuterne, però insomma lui ne ha parlato molto, ha fatto abbastanza riferimento ad Öcalan e a Bookchin, quindi se vi interessa e vi stimola anche andare a vedere cosa hanno detto i vari relatori, trovate tutto sul sito di wikiollus.com. Io non so se vogliamo aggiungere qualcosa, ci sono state insomma anche, come dicevo prima, dei saluti appunto da Kobane, insomma, diciamo che anche e il fatto insomma che ci hanno ricordato poi anche stesso da Kobane che la guerra o comunque la resistenza delle donne in particolare, degli uomini curdi, non è finita. Ricordiamo insomma che ancora a Kobane, comunque nei dintorni di Kobane, si combatte. Kobane deve essere totalmente ricostruita perché è rasa al suolo, si continua a combattere nel cantone di Cizire piuttosto che Afrin, insomma ancora tutta l'area del Rojava è sotto attacco da parte del Daesh, che ci sono ovviamente ancora tante resistenze, comunque c'è una forma di resistenza molto forte all'interno anche della Turchia, e nonché in Iran, in Iraq, via dicendo. Quindi insomma non è che la liberazione, appunto, poi anche molto mediatica che c'è stata su Kobane abbia risolto tutta la questione della liberazione della popolazione curda. Sì, io vi volevo appunto dire l'ultima impressione, anche per salutarvi, che mi è rimasta anche, diciamo così, a livello emotivo e di forza, il tornare a casa con l'idea che studiare è importante, ristudiare e parlare insieme, produrre pensiero, pensiero collettivo, parlare e discuterne. Non è un esercizio di parola, non è un esercizio di stile, ma è una pratica politica. Questa è una cosa che le curde e i curdi mi stanno reinsegnando, e sia mai ce lo dovessimo dimenticare, ricordiamoci che è importante. E soprattutto perché noi abbiamo una storia che va ristudiata, nel senso che non è che in Italia non sono state fatte delle lotte, esatto, per cui tutto il resto, esatto, del mondo deve essere preso come gli altri avanzano e noi indietreggiamo. Esatto. Comunque in questo paese si è prodotto molto a livello culturale, a livello di pratiche politiche, esatto, a livello di lotta di classe, a livello di femminismo, a livello di anticapitalismo. Una cosa che le accademie fanno è proprio questo, andare anche a, appunto, a ristudiare il passato per attuarlo e attualizzarlo. Certo. Penso che questa cosa, ogni tanto la memoria storica anche a noi ci farebbe molto bene. E dall'altra parte penso che però la richiesta di interlocuzione e anche a partire da una prospettiva diversa dalla nostra, perché radicata in un contesto diverso, in una cultura diversa, sia anche l'ho vissuta e la vivo tuttora come un'occasione anche per ripensare appunto tutta la storia di cui dicevi tu, Cristina.